Ad alta voce, leggere il Decamerone. Sir Ciappelletto, prima parte. Ser Cepparello, con una falsa confessione, inganna un santo frate e muorsi. Essendo stato un pessimo uomo in vita, è morto. Reputato per santo e chiamato San Ciappelletto. Convenevole cosa è, carissime donne, che ciascheduna cosa la quale l'uomo fa, dallo ammirabile e santo nome di colui il quale di tutte fu facitore, l'idea principio. Perché, dovendo io al vostro novellare, sì come primo dare cominciamento, intendo da una delle sue meravigliose cose incominciare, a ciò che quella udita, la nostra speranza in lui, sì come in cosa impermutabile, si fermi e sempre sia da noi il suo nome lodato. Manifesta cosa è che, siccome le cose temporali tutte sono transitorie e mortali, così in sé e fuor di sé esser piene di noia, d'angoscia e di fatica, e a infiniti pericoli soggiacere, alle quali senza niuno fallo né potremmo noi, che viviamo mescolati in esse, e che siamo parte d'esse durare né ripararci, se spezial grazia di Dio forza e avvedimento non ci prestasse, la quale a noi e in noi non è da credere che per alcun nostro merito discenda, ma dalla sua propria benignità, mossa e da prieghi di coloro impetrata che, sì come noi siamo, furono mortali. E bene i suoi piaceri, mentre furono in vita, seguendo, ora con lui, eterni son divenuti e beati, ali quali noi medesimi, siccome a procuratori informati per esperienza della nostra fragilità, forse non audaci di porgere i prieghi nostri nel cospetto di tanto giudice, delle cose le quali a noi reputiamo opportune, gli porgiamo. E ancor più in lui, verso noi di pietosa liberalità pieno, discerniamo che, non potendo l'acume dell'occhio mortale nel segreto della divina mente trapassare in alcun modo, avvien forse talvolta che, da opinione ingannati, tale dinanzi alla sua maestà facciamo procuratore, che da quella con eterno esilio è iscacciato. E non di meno esso, al quale niuna cosa è occulta, più alla purità del pregator riguardando che alla sua ignoranza o allo essilio del pregato, così come se quegli fosse nel suo cospetto beato, essa udisce coloro che il pregano. Il che manifestamente potrà apparire nella novella la quale di raccontare intendo. Manifestamente dico, non il giudicio di Dio, ma quel degli uomini, seguitando. Ragionasi adunque che, essendo musciatto francesi, di ricchissimo e gran mercatante in Francia, cavalier divenuto, e dovendone in Toscana venire con messer Carlo Senza Terra, fratello del re di Francia, da Papa Bonifazio addomandato e al venir promosso, sentendo egli li fatti suoi, siccome le più volte son quelli dei mercatanti, molto intralciati in qua e in là, e non potersi dileggere né subitamente stralciare, pensò quegli commettere a più persone, e a tutti trovò un modo, fuor solamente in dubbio gli rimase, cui lasciar potesse sufficiente a riscuoter suoi crediti fatti a più borgognoni. E la cagione del dubbio era il sentire li borgognoni, uomini riottosi e di mala condizione e misleali, e a lui non andava per la memoria chi tanto malvagio uom fosse in cui egli potesse alcuna fidanza avere che opporre alla loro malvagità si potesse. E sopra questa esaminazione, pensando lungamente stato, gli venne a memoria un ser Cepparello da Prato, il quale molto alla sua casa in Parigi si riparava, il quale, perciò che piccolo di persona era e molto assettatuzzo, non sappiendo li franceschi che si volesse dir Cepparello, credendo che cappello, cioè ghirlanda, secondo il lor volgare a dir venisse, perciò che piccolo era, come dicemmo, non Ciappello, ma Ciappelletto il chiamavano, e per Ciappelletto era conosciuto per tutto, laddove pochi per ser Cepparello il conoscieno. Era questo Ciappelletto di questa vita. Egli, essendo notaio, aveva grandissima vergogna quando uno dei suoi strumenti, come che pochi ne facesse, fosse altro che falso trovato, de quali tanti avrebbe fatti di quanti fosse stato richiesto e quegli più volentieri in dono che alcuno altro grandemente salariato. Testimonianze false con sommo diletto diceva, richiesto e non richiesto, e dandosi a quei tempi in Francia assaramenti grandissima fede, non curandosi fargli falsi, tante questioni malvagiamente vincea a quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato. Aveva oltremodo piacere e forte vi studiava in commettere tra amici e parenti e qualunque altra persona mali e inimicizie e scandali, de quali quanto maggiori mali vedea seguire, tanto più d'allegrezza prendea, invitato a un omicidio o a qualunque altra rea cosa, senza negarlo mai, volenterosamente v'andava e più volte a fedire e a uccidere uomini con le proprie mani si ritrovò volentieri. Bestemmiatore di Dio e dei santi era grandissimo e per ogni piccola cosa, sì come colui che più che alcuno altro era iracundo. A chiesa non usava giammai, e i sacramenti di quella tutti come vil cosa, come abominevoli parole scherniva, e così in contrario le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri e usavagli. Delle femmine era così vago come sono i cani dei bastoni. Del contrario, più che alcuno altro tristo uomo si dilettava. Imbolato avrebbe e rubato con quella coscienza che un santo uomo offerrebbe. Gulosissimo e bevitor grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli facea noia. Giocatore e mettitore di malvagi dadi era, solenne, perché mi distendo io in tante parole? Egli era il peggiore uomo forse che mai nascesse, la cui malizia lungo tempo sostenne la potenza e lo stato di messer Musciatto, per cui molte volte e dalle private persone alle quali assai sovente faceva iniuria e dalla corte a cui tuttavia la facea fu riguardato. Venuto adunque questo ser Cepparello nell'animo a Messer Musciatto, il quale ottimamente la sua vita conosceva, si pensò il detto Messer Musciatto costui dovesse essere tale quale la malvagità dei borgognoni il richiedea, e perciò, fattolsi chiamare, gli disse così: «Sai, Ciappelletto, come tu sai, io sono per ritrarmi del tutto di qui. E avendo tra gli altri affari con borgognoni, uomini pieni di inganni, non so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio da loro più convenevole di te. E perciò, con ciò sia cosa che tu niente facci al presente, ove a questo vogli intendere, io intendo di farti avere il favore della corte e di donarti quella parte di ciò che tu riscoterai che convenevole sia». Ser Ciappelletto, che scioperato si vedea e male agiato delle cose del mondo, e lui ne vedeva andare che suo sostegno e ritegno era lungamente stato, senza niuno indugio e quasi da necessità costretto, si diliberò e disse che volea volentieri. Perché, convenutisi insieme, ricevuta Ser Ciappelletto la procura e le lettere favorevoli del re, partitosi Messer Musciatto, n'andò in Borgogna, dove quasi niuno il conoscea, e quivi, fuori di sua natura, benignamente e mansuetamente, cominciò a voler riscuotere e fare quello perché è andato vera, quasi si riservasse l'adirarsi al da sezzo. E così facendo, riparandosi in casa di due fratelli fiorentini, li quali quivi a usura prestavano, e lui per amor di Messer Musciatto onoravano molto, avvenne che egli infermò, al quale i due fratelli fecero prestamente venir medici e fanti che il servissero e ogni cosa opportuna alla sua santà racquistare, ma ogni aiuto era nullo, perciò che il buono uomo, il quale già era vecchio e disordinatamente vivuto, secondo che i medici dicevano, andava di giorno in giorno di male in peggio, come colui che aveva il male della morte. Di che gli due fratelli si dovevano forte. E un giorno, assai vicini della camera nella quale Ser Ciappelletto giaceva infermo, se come desimo, cominciarono a ragionare. Che faremo noi di costui? Noi abbiamo dei fatti suoi, pessimo partito alle mani. Perciò che il mandarlo fuori di casa nostra, così infermo, ne sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno, veggendo la gente che noi l'avessimo ricevuto prima e poi fatto servire e medicare così sollecitamente, e ora senza potere egli aver fatta cosa alcuna che dispiacerci debbia, così subitamente di casa nostra e infermo a morte, vederlo mandar fuori. D'altra parte, egli è stato sì malvagio uomo che egli non si vorrà confessare né prendere alcuno sacramento della Chiesa, e morendo senza confessione niuna Chiesa vorrà il suo corpo ricevere, anzi sarà gittato a fossi a guisa d'un cane. E se egli si pur confessa, i peccati suoi son tanti e sì orribili che il simigliante n'avverrà. Perciò che frate né prete ci sarà che il voglia né possa assolvere, perché non assoluto anche sarà gittato a fossi. E se questo avviene, il popolo di questa terra, il quale sì per lo mestier nostro, il quale loro pare iniquissimo, e tutto il giorno ne dico male, e sì per la volontà che hanno di rubarci, veggendo ciò, si leverà a rumore e griderà: questi lombardi cani, li quali a chiesa non sono voluti ricevere, non ci si vogliono più sostenere, e correrannoci alle case. E per avventura, non solamente l'avere, ci ruberanno, ma forse ci torranno oltre a ciò le persone. Di che noi in ogni guisa stiamo male se costui muore. Ser Ciappelletto, il quale, come dicemmo, presso giacea là dove costoro così ragionavano, avendo l'udire sottile, sì come le più volte veggiamo aver gli infermi, udì ciò che costoro di lui dicevano, li quali egli si fece chiamare e disse loro: io non voglio che voi d'alcuna cosa di me dubitiate, né abbiate paura di ricevere per me alcun danno. Io ho inteso ciò che di me ragionato avete, e son certissimo che così n'avverrebbe come voi dite, dove così andasse la bisogna come avvisate. Ma ella andrà... altrimenti, io ho, vivendo, tante ingiurie fatte a Domeneddio, che per farnegli io una ora in sulla mia morte, né più né meno ne farà. E perciò procacciate di farmi venire un santo e valente frate, il più che aver potete, se alcun ce n'è. E lasciate fare a me, che fermamente io acconcerò i fatti vostri e miei, in maniera che starà bene e che dovrete esser contenti. Glossario. Noi medesimi, siccome a procuratori informati per esperienza della nostra... Procuratore equivale a intermediario, protettore. È termine chiave di tutta la novella, poiché coincide con la funzione assunta da Ser Ceparello. E alla sua ignoranza o allo essilio del pregato, così come... Essilio vale propriamente come dannazione. Si ricordi l'eterno essilio del verso di Dante. ...di leggere né subitamente stralciare, pensò quegli... Come... Stralciare. Significa sbrogliare, districarsi, in opposizione all'intralciati descritto poco prima. Quando uno dei suoi strumenti, come che pochi ne facesse... Strumenti. Ha qui significato di scrittura pubblica, contratto, attinente alla professione di Ser Ceparello, che è notaio. A quei tempi in Francia a Saramenti, grandissima fede, non curante... Saramenti. Dal latino sacramentum. Ha qui il senso di giuramento. L'uomo si dilettava. Imbolato avrebbe. Imbolato. È participio passato di imbolare, ovvero rubare con destrezza, ed è variante popolare toscana di involare, dall'antico francese omblé. Quasi si riservasse l'adirarsi al da sezzo. Al da sezzo. È forma avverbiale che deriva dal latino sezius, che letteralmente significava più tardi. Qui il significato è da ultimo. Voi d'alcuna cosa di me dubitiate, né abbiate paura. Dubitare. Qui, dubitare, voce dotta, è usata nel senso di temere. Le diverse componenti sociali del variato popolo del Decamerone entrano ciascuna in scena con la propria lingua. Nobili e plebei, monaci e laici, mercanti e marinai, notai, medici, eccetera. Il Decamerone ci presenta una stratificazione veramente preziosa della realtà linguistica due-trecentesca. Ma i lessici speciali, così come le molte forme dialettali, non sono per il Boccaccio solo uno degli strumenti del suo realismo. Essi sono anche il mezzo privilegiato per evadere da quella realtà. Dunque sono uno strumento essenziale della sua fantasia, del suo espressivismo linguistico caricaturale o allusivo. E la comicità di tante situazioni e di tanti personaggi si appoggia spesso e volentieri sull'uso stravolgente di un certo lessico professionale. Tipico il caso di Ser Ciappelletto. La professionalità di questo personaggio nel compiere il male viene seguita dal Boccaccio passo passo innanzitutto nello stravolgimento, da lui sistematicamente attuato, di tutti gli atti consueti del suo mestiere di notaio. Strumenti, cioè atti, testimonianze e saramenti, cioè giuramenti, sempre falsi, oppure questioni, cioè processi, che gli vanno bene. Così come alla fine gli riuscirà, grazie appunto a un uso perfettamente adeguato della tecnica e del linguaggio del penitente, l'inganno nei confronti del dotto e ingenuo confessore. Due fratelli, come che molta speranza non prendessero di questo, non di meno se ne andarono a una religione di frati e domandarono alcuno santo e savio uomo che udisse la confessione d'un lombardo che in casa loro era infermo. E fu lordato un frate antico, di santa e di buona vita, e gran maestro in scrittura, e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e speziale divozione aveano, e lui menarono. Il quale, giunto nella camera dove Ser Ciappelletto giacea e al lato posto gli si a sedere, prima benignamente il cominciò a confortare e appresso il domandò quanto tempo era che egli altra volta confessato si fosse. Al quale Ser Ciappelletto, che mai confessato non s'era, rispose: padre mio, la mia usanza suole essere di confessarsi ogni settimana almeno una volta, senza che assai sono di quelle che io mi confesso più. È il vero che poi che io infermai, che son passati da 8 dì, io non mi confessai, tanta è stata la noia che la infermità m'ha data. Figliol mio, bene hai fatto. E così si vuol fare per innanzi. E veggio che poi si spesso ti confessi, poca fatica avrò d'udire o di dimandare. Come serlo, frate, non dite così. Io non mi confessai mai tante volte, né sì spesso, che io sempre non mi volessi confessare generalmente di tutti i miei peccati che io mi ricordassi, dal dì che io nacqui infino a quello che confessato mi sono. E perciò vi prego, Padre mio buono, che così puntualmente d'ogni cosa mi domandiate come se mai confessato non mi fossi. E non mi riguardate perché io infermo sia, che io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni che, facendo agio loro, io facessi cosa che potesse essere perdizione dell'anima mia, la quale il mio Salvatore ricomperò col suo prezioso sangue. Glossario. Se ne andarono a una religione di frati e domandarono al... Religione di frati. Qui vale per convento, o comunque si intende un luogo dove abitano i religiosi. Che poi che io infermai, che son passato... Infermai. Il verbo infermare è voce che deriva dal latino infirmare, cioè rendere debole. Significa dunque rimanere infermo, ammalarsi. Queste mie carni, che facendo agio loro, io facessi cosa... Facendo agio loro. È locuzione che significa indulgendo al loro comodo, compiacendoli, accontentandoli. Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.